Grazie a te, Luigi. Possiamo fare un applauso, Luigi, non solo per quello che ha fatto questa sera, ma per quello che fa instancabilmente per i nostri figli. Grazie, grazie per il tuo servizio, per il tuo cuore. È bellissimo. Buonasera, Chiesa. Ci siamo? Belli svegli? Bellissimo. Guardatevi a fianco, uno a fianco, e dite: il Signore ha qualcosa di incredibile questa sera per te. Diglielo in faccia così. Ascolta e porgi l'orecchio questa sera. Questa sera, oh, solo porgi l'orecchio dovevi dire, non dovevi dire tutto, vabbè dai, va benissimo, buonasera. Stasera voglio iniziare con raccontarvi una storia. Sapete, io ho degli eroi della fede che hanno influenzato la mia vita in maniera incredibile, e due in particolare. Uno è il pastore John Piper, un pastore che non ho mai conosciuto di persona, però il suo ministero influenza la mia vita, e ha influenzato anche questo messaggio dal Salmo 78, e poi uno per eccellenza, che immaginate un po', è vissuto fra il 1850 e i primi del Novecento. È morto, non l'ho mai incontrato, però il Signore si è usato di questa persona per cambiare il mio cuore, sia per il grande mandato, per la missione, che per la preghiera. Questa persona ha portato il Vangelo in Cina quando il Vangelo in Cina non c'era, è andato dove nessuno si è mai spinto oltre. Grazie al suo ministero più di 1000 persone, più di 1000 discepoli di Cristo Gesù l'hanno seguito e hanno portato il Vangelo lì dove non c'era. Se oggi la Chiesa cinese è quella che è, si dice la parte del corpo di Cristo più numerosa al mondo, sicuramente grazie a questa persona fedele, alla grazia del Signore su Hudson Taylor. Forse lo avete sentito nominare. Ma come è venuto al Signore Hudson Taylor? E questa è la storia che vi voglio raccontare. Aveva 17 anni, era una giornata di estate e si annoiava, non aveva nulla da fare, né per il lavoro che faceva per il papà, né la mamma e il papà erano fuori in visita dai parenti, si annoiava. E quindi, come ogni ragazzo di 17 anni, ha iniziato a navigare su internet, giusto? No, perché nel 1800 non c'era internet, era l'internet dell'epoca, la libreria del papà. E nella biblioteca del papà c'erano tanti libri sulla storia naturale, sui viaggi, e a lui piacevano molto. Però quel giorno non riusciva a trovare il libro giusto, era un po', non riusciva a fare l'uovo, era un po' frustrato, annoiato. Però si è imbattuto in un opuscolo. E già sapeva che era un opuscolo evangelistico, lui aveva sentito molte volte la storia dei genitori, 1, 2, 3, 10 volte, e si disse: vabbè, io mi leggo la storia accattivante, curiosa, che è all'inizio, e poi passo la parte di sfida, di arrendere la propria vita a Gesù. Legge la storia di questo minatore povero che è catturato dalla frase: l'opera compiuta di Cristo sulla croce, quando Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Allora questo minatore si dice: oh, allora tutti i miei peccati sono perdonati, allora sono libero. Sì, è così. Questa persona si è convertita, questa era la storia nell'opuscolo. E Hudson Taylor anni dopo scriverà: l'opera compiuta di Cristo, leggere tutto è compiuto quel giorno, catturò il mio cuore come mai prima, ha trasformato la mia vita. Poi scriverà che l'opera compiuta dopo aver appreso dell'opera compiuta di Cristo, non rimaneva che cadere sulle mie ginocchia, questo scrisse, cadere sulle mie ginocchia, accettare questo Salvatore, la sua salvezza, lode a Lui per sempre. Così questo uomo meraviglioso ha dato la sua vita a Cristo Gesù. Una storia fantastica di questo uomo, però la storia non finisce qui. Vi ricordate la mamma? La mamma era in visita dai parenti, a 70 chilometri, 70 chilometri nel 1800 si facevano in 10 giorni, non lo so in quanti giorni si facevano, però era molto più lontano. E niente, un giorno di questa visita, di queste 2 settimane, la mamma sente questo desiderio irrefrenabile, proprio questo bisogno di pregare per la salvezza di suo figlio. Che fa questa donna? Si chiude nella sua cameretta, a chiave proprio, c'è scritto, si chiude a chiave e dice: io da qui non me ne vado fin quando io ho la certezza che mio figlio è salvato. E ha iniziato a pregare 1 ora, 2 ore, c'è scritto ore, non sappiamo quante ore, però poi a un certo punto la mamma dice: non sono più potuta andare avanti, non ho potuto più proseguire. Perché? perché avevo ricevuto quella certezza nel mio cuore che mio figlio era stato salvato. 2 settimane dopo torna a casa, no? E il figlio Hudson era il primo che voleva abbracciare la mamma, darle il benvenuto per poterle dire: mamma, mamma, indovina un po', ho dato la mia vita a Cristo Gesù. Sapete come risponde la mamma? Figlio, già lo so, sono 2 settimane che festeggio per te. Non è incredibile questa storia di una mamma dedicata in preghiera per la salvezza del figlio. Ma c'è di più. Hudson Taylor, un po' di tempo dopo, ha scambiato il suo diario per quello della sorella e ha iniziato a sfogliarlo pensando che fosse il suo diario, ha trovato il suo nome scritto, questo ha catturato la sua attenzione, ha iniziato a leggere e ha iniziato a leggere che la sorella aveva preso un impegno e aveva scritto: Hudson Taylor, 2 punti, pregherò fin quando, ogni giorno, fin quando mio fratello non venga salvato, fin quando il mio fratello non arrende la sua vita a Cristo Gesù. Questo era scritto, no? C'era la data, era un diario, 1 mese prima di quella mattina di giugno dove Hudson Taylor ha dedicato la sua vita al Signore. E il Signore ha fatto grandissime cose attraverso questa persona. Perché? Perché vi racconto questa storia? Perché il Signore chiama noi, mamme, papà, mamme, papà, fratelli, sorelle, amici, colleghi, per portare a nuova nascita altre persone. Lui si usa di noi, delle nostre parole, delle nostre preghiere per trasformare vite. E la parola di Dio è piena di queste testimonianze. No, non ci serviva neanche quella di Hudson Taylor, perché la Bibbia è piena di queste testimonianze. Non solo, la Bibbia è piena di comandi. Ci comanda di proclamare la sua salvezza, di proclamare il suo Vangelo. E una di queste proclamazioni, di questi comandi, si trova proprio nel Salmo 78. Vi ho distratto con questa storia, pensavate, ah, finalmente non predicate più sui salmi? No, invece no, il Salmo c'è. E lo leggiamo dai nostri cellulari, lo leggiamo dalle nostre Bibbie di carta. Posso vedere per alzate di mani chi ha la Bibbia di carta ancora in questa stanza? Ah, vedi, ci sono alcuni. Che Dio vi benedica. Per questo io porto i miei buoni foglietti di carta, così non succede nulla. Il Salmo 78 è una proclamazione a questo. Leggiamolo insieme. Il Salmo 78 è il secondo salmo più lungo del libro. Quindi non lo leggeremo tutto, ma leggiamo i primi 7 versetti, dall'1 al 7. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, quel che abbiamo udito e conosciuto, che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli, Dio, stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero raccontate ai loro figli. Perché? Affinché, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Questo è il Salmo 78 e questo Salmo è stato scritto da Asaf, un worship leader, diremmo oggi, istituito da Davide proprio per lodare e ringraziare Dio. Ed è un salmo che ripercorre, è un salmo che insegna, ha un'istruzione da dare, no? Lo dice nel primo versetto, e lo fa attraverso la storia, e lo fa in particolar modo attraverso la storia del popolo di Israele. Infatti il Salmo 78 ripercorre la storia di Israele dalla schiavitù d'Egitto fino a quando è costituito il re Davide. Quindi Asaf ripercorre la storia del popolo di Israele E racconta questa storia, è un salmo alquanto deprimente, perché tutti i fallimenti di una volta, e due volte, e tre volte, vi ho liberato dal popolo di Egitto e volevate tornare, e vi ho fatto passare dal Mar Rosso e vi siete, e vi ho dato la manna, e vi ho dato l'acqua, e niente, sono inguaribili questi israeliti. Quindi è proprio un salmo un po' deprimente, però finisce con una speranza gloriosa che abbiamo sempre e solo in Dio. E il Salmo inizia proprio con incoraggiare il popolo, noi che oggi leggiamo il Salmo, a prestare attenzione a queste parole. E dice Asaf: io aprirò la mia bocca per esprimere parabole e misteri antichi. Vuole esprimere parabole e misteri antichi. E poi prosegue e dice cose che noi abbiamo già udito, no? Quello che i nostri padri ci hanno raccontato, cose che abbiamo udito, quindi non solo udito con le nostre orecchie, ma conosciuto, quindi sperimentato con quello che noi siamo, con la nostra vita, è un'esperienza di vita. E qui, qui avviene che io mi litigo con la Bibbia, no? Infatti se ci fosse Asaf oggi qui, gli chiederei: allora Asaf, un minuto, hai appena detto parabole e misteri antichi e poi mi dici cose che noi conosciamo e abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato. Allora, so parabole e misteri o cose che conosciamo e i nostri padri ci hanno raccontato? Chiederei ad Asaf. E Asaf mi direbbe, no, non so cosa direbbe, però sicuramente il Salmo 78 include parabole. Che cosa sono parabole? Parabole sono anche immagini, no? Immaginate Gesù e quello che lui ha fatto con le parabole, no? Dava una storia, un'immagine della vita quotidiana per insegnare. E sicuramente il Salmo 78 lo fa, no? Usa queste immagini del popolo di Israele come gregge. Ovviamente sappiamo che il popolo di Israele non era pecore. C'è scritto che un'altra parabola, che il Signore si risveglia gridando dopo essersi ubriacato. Ovviamente il Signore non si è mai ubriacato e non ha mai dormito per 4 giorni. Quindi queste sono immagini e parabole che sono contenute nel Salmo. Però, secondo me, quando Asaf dice io esprimerò cose, parabole e misteri, vuole dirci qualcosa di più profondo, vuole passarci questo insegnamento ispirato dallo Spirito Santo a cose più profonde, a cose che toccano il nostro cuore ancora oggi che le leggiamo. Quindi è vero, Asaf racconta la storia di Israele, ma vuole andare più a fondo e in particolar modo va a fondo in due cose, secondo me, e in sotto forma di due domande. Attraverso la storia di Israele vuole andare più a fondo con queste due domande, con queste due provocazioni a noi, con questi due misteri per noi. La prima domanda è questa: è mai possibile che Israele continui a ribellarsi a Dio? Una volta, due volte, tre volte il popolo sembra testardo, il popolo sembra ribelle e non cambia. Sentite quello che è scritto nel Salmo 78 al verso 40 e 41. C'è scritto: quante volte si ribellarono a lui nel deserto, il popolo di Israele, lo contristarono in quelle solitudini, sempre, di nuovo e di nuovo tentavano Dio, esasperavano il Santo di Israele. Com'è mai possibile che il popolo di Israele, inguaribilmente testardo, non capisce e non capisce mai? Io ricordo quando ero proprio bambino, ricordo questa cosa in maniera particolare, bambino, ragazzino, quando leggevo le storie di Israele. E leggevi che una volta, no, come ho detto prima, è la manna, ecco, e poi non capivano mai niente. Cioè io a un certo punto ho detto: oh, ma questi israeliti sono proprio stupidi, Cioè, diciamocelo. E che ci vuole a capire che se obbedisci Dio vai in un certo modo, se non lo obbedisci vai in un altro. Facilissimo, no? Fino a quando ho riletto e ho riletto e ho vissuto la mia vita, la mia esperienza, i miei fallimenti, una volta, due volte, tre volte. E mi sono detto: io sono il popolo di Israele, io sono testardo, io sono inguaribilmente ribelle, una volta, due volte, tre volte. Come è mai possibile? Come è mai possibile questo? Questa è la parabola, è l'insegnamento più profondo, il mistero che Asaf, la parola di Dio, ci sta passando dalla storia di Israele. Ma non ci lascia questa domanda, vi ho detto che sono due le domande. E la seconda domanda è questa. È mai possibile che Dio è così paziente e misericordioso? È possibile che Lui è così pieno di grazia e di amore? È mai possibile? Leggiamolo. C'è scritto, sempre nel Salmo 78, al versetto 38, c'è scritto: ed Egli, Dio, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli, molte volte, di nuovo e di nuovo, molte volte placò la sua ira e trattenne il suo furore. È mai possibile che Dio si relaziona a noi così ancora oggi? Sì. Sì, sì, è la nostra risposta e dovrebbe essere la nostra risposta. Il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui si è rivelato come quello, lento all'ira, ma abbondante in amore. È lo stesso Dio. Queste sono le parabole, questi sono i misteri profondi di cui Asaf vuole passare l'insegnamento, vuole aprire gli occhi al popolo di Israele. La parola di Dio vuole aprire i nostri occhi questa sera. Noi siamo il popolo ribelle, noi siamo il popolo del Salmo 78, ma Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui ha fatto una strada, Lui ha fatto una strada di speranza, Lui ci ha dato qualcosa e lo dice quello che Dio ha fatto. Nel verso 5, l'abbiamo letto, c'è scritto: Egli, Dio, stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele. Che questo significa? Dio ha stabilito la sua legge, la sua testimonianza. No, che sono i primi cinque libri del Vecchio Testamento, no, tutte le leggi. Però molto probabilmente Asaf lo potrebbe anche racchiudere in i 10 comandamenti. No? La sua testimonianza sono i 10 comandamenti. Lui ha stabilito questa testimonianza. E fratelli e sorelle, i 10 comandamenti non iniziano con tu farai o non farai, ricordati e onora. Sapete come iniziano i 10 comandamenti? I 10 comandamenti iniziano con io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. In altre parole, il Signore ha iniziato la sua testimonianza non con quello che io e tu dobbiamo fare o il popolo di Israele doveva fare, ma ha iniziato la sua testimonianza con quello che Lui ha fatto per prima, per il popolo di Israele, per te e per me. Lui ha fatto il primo passo, Lui fa sempre il primo passo e sta dicendo: tu eri schiavo e io ti ho reso libero, tu eri imprigionato in quella prigione senza speranza, io ho aperto quelle porte e tu sei uscito. Io ti ho dato nuova vita quando eri morto. Io sono il Signore tuo Dio. Io ti ho liberato dalla schiavitù dell'Egitto. E inizia sempre così. Se non è Dio a fare il primo passo, fratelli e sorelle, amici e amiche, noi siamo persi, noi non abbiamo speranza. È questo quello che spinge Asaf attraverso questo salmo. Infatti, c'è scritto, egli stabilì una testimonianza, verso 5, affinché, l'abbiamo letto nel verso 7, affinché ponessero in Dio la loro speranza, affinché si ricordassero delle meraviglie di Dio, quello che Lui ha fatto per prima, e affinché potessero poi obbedire ai comandamenti e avere nuova vita. Queste sono le parabole, questi sono i misteri profondi del Salmo 78 che noi dobbiamo ricordare, che noi dobbiamo rendere vivi per la nostra vita. L'Apostolo Paolo l'avrebbe messo in altre parole, avrebbe detto: misero uomo che sono, vi ricordate? Nel capitolo 7 di Romani, misero me, chi salverà questo corpo di morte? E poi dice: grazie a Dio Padre, perché lo fa attraverso Cristo Gesù. Dio è lo stesso ieri per il popolo di Israele, oggi per te e me, e lo sarà in eterno. Dio è la via, la verità e la vita, per salvezza per ognuno di noi. Questa è la parabola, questo è il mistero profondo. Mi state guardando come pesci lessi. Qualcuno adesso dovrebbe iniziare a saltare sulla sedia e dire: sì, questa è la mia storia, questa è la mia vita. Io ero morto, ma adesso sono vivo. Io ero schiavo e adesso sono libero. Io ero e molto spesso sono il popolo di Israele, ma la mia speranza è in Dio. Lui ha fatto una strada, Lui mi ha reso libero, Lui mi ha guarito, Lui mi ha dato novità di vita. Questa è la parabola che Asaf ci dà. Questi sono i misteri profondi che dobbiamo riscoprire ogni giorno. E questo è quello che poi Asaf ci dice: dobbiamo proclamare. Questo è quello che noi siamo chiamati a proclamare. Questi misteri profondi, queste parabole, queste due domande di chi siamo noi e chi Dio è, dobbiamo proclamarlo. L'abbiamo letto, il verso 5, c'è scritto che ordinò ai padri di farle conoscere ai loro figli perché fossero note alla generazione futura. Il verso 3 dice: i nostri padri, l'abbiamo letto, ci hanno raccontato, i figli non lo nascondono e lo proclamano alla generazione futura. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E se c'è un gruppo di credenti in questa stanza questa sera, posso vedere le mani di chi crede in Cristo Gesù, ha avuto libertà e nuova vita? Se c'è questo gruppo di persone in questa stanza, è grazie al fatto che ci sono state persone fedeli che nel passato l'hanno proclamato con fedeltà. Ci sono stati dei padri e delle madri spirituali che lo hanno fatto fedelmente. Per questo noi dobbiamo essere riconoscenti e siamo qui questa sera. I padri l'hanno proclamato, questo è quello che vuol dire. I padri l'hanno proclamato, i nostri padri ci hanno raccontato, noi non lo nasconderemo ai figli. Chi sono i figli? Chi è il figlio di mio padre? Pronto? Andiamo? Chi è presente? Chi è il padre? Chi è il figlio di mio padre? Io, il pastore Mirko, bravissimi! Bravissimi, i figli sono noi dei padri, no? Ci siamo, ok, è facilissimo, non è difficile. Chi è i figli dei padri? Noi, questa è la generazione. Se noi abbiamo avuto dei padri spirituali, i figli, noi, la generazione presente, non lo nasconde, non lo cela, non lo dimentica, questa è la parola che vuol dire, non lo dimentica, non lo trascura, non lo lascia così, non lo dà per scontato, non lo dà per scontato. Ma lo cura, lo nutre e continua a proclamarlo. Io e tu siamo chiamati a proclamarlo con forza e fedeltà a questa generazione. Noi siamo i figli, fatemi dire così, che hanno la responsabilità su questa generazione di proclamare queste verità, di proclamare le parabole che Asaf ha dichiarato. E come lo facciamo? Voglio passarvi una cosa molto pratica, permettetelo di fare. Lo facciamo questo anche con i candidati che inviamo sul campo. Noi i candidati operai, i missionari che noi inviamo, arrivano molto spesso in popoli dove ci sono milioni di persone e nessuno conosce il Signore. E loro dicono: è da dove si inizia? E c'è questa strategia che si chiama trova la persona di pace. E questa dritta, questa strategia voglio passarvi. O meglio, è il Signore che ce la passa, perché in Luca 10 il Signore passa questa strategia ai suoi discepoli. Vedete cosa c'è scritto? Dice: andate, quindi c'è bisogno di andare, dobbiamo muoverci, fratelli e sorelle, dobbiamo andare. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate né questo né questo né quell'altro. In qualunque casa entriate, c'è scritto, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella casa, se c'è il figlio di pace. A me piace immaginare che i discepoli andavano di città in città, di paese in paese, entravano e iniziavano a cercare questa persona di pace, no? Forse andavano in giro per la strada, al mercato, a dire: pace a te, E quello lo guardavano e dice, ma questo che vuole da me? Però forse alcuni rispondevano, dicevano, pace, pace, ti serve qualcosa, vuoi un caffè, vuoi un tè, vieni. E magari lo invitavano in casa. È questo che mi piace immaginare, che lì poi sono nate le prime chiese, i primi credenti in casa, e da lì il Vangelo si è iniziato a prorogare. Quindi la mia sfida per tutti quanti noi è: troviamoci la persona di pace, in famiglia, fra i colleghi, fra gli amici, a scuola. Può essere, a me impaurisce questo pensiero, no? Di andare a 10, 20 persone e dire, beh, io mo devo predicare il Vangelo. Io sono una persona timida, essenzialmente, introversa più che timida. E quindi mi spaventa questa cosa. Ma questa strategia è molto sottile, secondo me, molto importante, proprio per trovare quella porta aperta. Trova la tua persona di pace nelle sfere di influenze della tua vita. Chiedi al Signore, fammi trovare quella persona di pace. Ma proprio come si trova la persona di pace? Come possiamo fare a trovare questa persona di pace? La prima cosa, preghiera. Preghiamo. Preghiamo, Signore, fa che al lavoro tu possa farmi incontrare o aprire la porta con una persona. Magari al lavoro hai testimoniato da 10 anni, tutti sanno che nessuna porta si è aperta. Prega, prega che il Signore possa aprirne una a scuola, in famiglia, una persona di pace. Il Signore, una pecorella smarrita, non 99, una. Trova quella persona di pace, inizia a pregare per quello. La seconda cosa, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. La mia preghiera è che io, quest'anno, noi insieme come Chiesa possiamo risvegliare il nostro spirito ed essere sensibili a dove sono le persone di pace, attraverso le quali il Signore vuole che noi condividiamo il Vangelo e prorogare il suo regno. Che noi possiamo sviluppare, sapete fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo ci è stata data per questo. Non per nient'altro in primo aspetto, se non per questo. In Atti 1:8 c'è scritto, e quando lo Spirito scenderà su di voi mi sarete testimoni. Lo Spirito Santo ci è dato per essere testimoni. Trova la tua persona di pace. Chiedi al Signore questa sensibilità nello Spirito di guidarti a queste persone di pace. Preghiamo. Preghiamo per le persone. Offriamo di pregare per le persone. Io vi ho letto Luca 10. In Matteo 10 c'è il corrispondente. E lì dice, pregate, dice ai discepoli Gesù, quando entrate, pregate per gli ammalati, per gli indemoniati, pregate e io mi rivelerò. Preghiamo, offriamo di pregare per le persone. Guardate, io ci ho provato. E quasi nessuno mi dice di no. Ora, ci sono due tipi di sì, però. Quando ho offerto di pregare, la persona dice, sì, sì, prega per me, perché di solito non dicono mai no. Sì, sì, prega per me. Allora io dico, preghiamo. E la persona dice, ah, adesso vogliamo pregare? No, vabbè, adesso devo andare. Poi magari tu fallo a casa tua a pregare. Prega per me, prega per me. Ciao. Molto probabilmente quella non è una persona di pace. Non c'è una porta aperta lì. Ma se la persona in quel momento dice, sì, prega per me. Altrettanto probabilmente, quella è una persona di pace. Il Signore sta aprendo una porta. Offriamo di pregare per le persone nell'autorità di Cristo Gesù. Amen? Un'ultima cosa per trovare le persone di pace. Dite pace a te. E vedete come va. Pace è quello che ci vuole. Pace a te, adusta la guerra, no? Molto spesso queste sono le risposte che io. Proviamolo, perché no? Magari non proprio pace a te. Sapete, io ho un amico fantastico, Mike, a dire il vero ha predicato su questo palco, lui è stato un missionario in Turchia e lui faceva questa cosa. Entrava nei negozi, entrava dovunque andava, le bancarelle o comunque dove si trovava in contesto nuovo, e faceva questo pace a te. Non lo faceva proprio così. Sapete come faceva? Entrava e c'era, di solito faceva solo quando c'era una persona o poche persone, e diceva, mo. Sapete cosa ho letto di bellissimo oggi nella Bibbia? Silenzio, non diceva più niente. Sai quel momento un po'... niente. E lui diceva, lui mi dice che se non c'è una persona di pace, nessuno mi chiederà. Nessuno mi chiederà, ah sì, che cosa hai letto? Mi dici che, ah, è interessante. E invece se c'è una persona di pace, indovinate chi sarà quella persona che vi chiederà, cosa? Cosa hai letto? Che cosa, come ha cambiato il tuo cuore? E quello è il modo in cui lui trova le persone di pace. Cerchiamo le persone di pace in questo modo. Offriamo di pregare, diciamo, oggi ho letto questo nella parola di Dio. Se qualcuno risponde, dice cosa? Allora lì il Signore molto probabilmente ci sta facendo incontrare una persona di pace, ci sta aprendo una porta. Camminiamo in quella porta aperta, perseguiamola. Amen? Il Salmo 78, più di ogni altra cosa, ci chiama a proclamare i misteri, la parabola di chi noi siamo e chi Dio è alla generazione prossima. Ai nostri figli. Questa cosa stamattina non l'ho detta, però la dico questa sera, faccio questa parentesi. Ci sono genitori in mezzo a noi, ci sono genitori da 20 a 90 anni. Quando si finisce di essere genitore? Quando si muore, no, c'è un momento che quando muori non sei più genitore, giusto? A parte gli scherzi, non si finisce mai di essere genitore. Però non si è solo genitori naturali. Si è anche genitori spirituali. E quindi quello che sto per dire vale anche per noi genitori spirituali. Se sei single, se sei sposato o non hai ancora figli, o non hai potuto avere figli, il Signore ti rende genitore in un modo molto più glorioso. Tutti quanti noi ci rende genitori spirituali in un modo molto più glorioso. E il Salmo 78 ci chiama a proclamare questo, queste verità ai nostri figli. Perché? Perché ogni generazione deve ricordare che è una generazione ostinata e ribelle, testa dura. E ogni generazione deve ricordare chi Dio è, che Lui ha fatto qualcosa per primo. Lui ha fatto la prima mossa per salvarci, per darci una speranza, per darci una via alla libertà. Ogni generazione lo deve ricordare questo e non possiamo darlo per scontato, papà e mamme. Non possiamo darlo per scontato, dobbiamo essere intenzionali. Qui se c'è una parola proprio importante è intenzionali. Dobbiamo essere intenzionali. Dobbiamo ricordare ai nostri figli. Io ricordo ai miei figli che sono una generazione ostinata e ribelle. Forse non glielo dico proprio così perché mi guarderebbero strano, ma è così. Io devo ricordare loro che senza Cristo Gesù, senza Dio, sono morti nei loro peccati. Non c'è speranza per loro e sono destinati a sbagliare una, due, tre volte. E lo dico a Elijah quanto a Chloe e ad Aurora. Hai bisogno di Cristo Gesù, hai bisogno della sua salvezza. Non possiamo dare questo per scontato, genitori. Io imploro i miei figli, li esorto a dire... Hai bisogno di Gesù, hai bisogno di Gesù, hai bisogno di Gesù, altrimenti non c'è speranza, altrimenti non c'è salvezza, altrimenti non hai futuro. Tu sei quel israelita ribelle del Salmo 78, insieme a me, lo siamo insieme, la nostra speranza è solo in Dio. Non possiamo darlo per scontato, dobbiamo sottolinearlo. E non parlo di mortificarli, no? Quanto spesso io sono il primo. E chiedo perdono a Dio, a voi, ai miei figli già fatto. Quando in un momento di impazienza ti scappa la parola che non dovresti dire. Non sto parlando di quello, non dovrebbe mai, se non vogliamo mortificare o sminuire i nostri figli, ma vogliamo proclamare, predicare la verità. Questo è quello che il Salmo ci chiama a fare. E come possiamo farlo? Guardate, io e mia moglie abbiamo provato più cose. E vi passerò alcune molto pratiche. Sicuramente c'è da fare di più, si può aggiungere altro, ma in questo, padri e madri, dobbiamo essere intenzionali. La prima cosa, 10 minuti al giorno. Ci vuole così poco, 10 minuti al giorno. Io dico sempre ai papà che mi vengono a chiedere, alle persone che mi vengono a chiedere, è meglio un minuto al giorno che il sermone del nostro monte di 3 ore quando le cose vanno a rotoli, abbiamo perso il controllo, no? Sappiamo che le cose sono andate a male, lì ci ricordiamo la Bibbia, la apriamo e poveraccio il bimbo o il figlio o chi è. Meglio un minuto al giorno, 10 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, lo facciamo ogni giorno? No, ma questo è il nostro obiettivo, 10 minuti al giorno, leggiamo insieme, apriamo un passo anche breve. Ieri tipo abbiamo letto il passo della via stretta e della via larga, tutto lì, 2-3 versetti. E poi chiediamoci, facciamo delle domande, che cosa dice questo di noi? Chi siamo noi? Che cosa dice questo di Dio? Che cosa dice che noi dobbiamo fare in base a questo? Ne parliamo, e quante cose escono. E lì poi ci possiamo autocorreggere, possiamo imparare l'uno dall'altro dalla parola. E poi preghiamo l'uno per l'altro. 10 minuti al giorno, questo ci aiuta a proclamare le verità, i misteri, a far conoscere chi sono i nostri figli, chi siamo noi e chi è Dio. Fondamentale. 10 minuti al giorno. Un'altra cosa che secondo me è importantissimo è proprio questa cosa dell'età. Secondo me c'è un'età dove noi possiamo dare, dobbiamo dare. E secondo me questa età inizia a 2 anni. Perché se un bimbo di 2 anni può guardare un cartone, seguire la storia, possiamo raccontargli le storie della Bibbia, possiamo raccontargli le storie di Gesù. Quindi da subito, dai 2 agli 8, 9 anni, secondo me possiamo fare quello che io chiamo, mi piace chiamare, download. Cioè dare, impartire le storie, gli insegnamenti, man mano che crescono, aggiungere sempre di più, sempre renderlo più completo, più profondo. E poi arriva l'età dove questo puoi farlo sempre meno. E questa età inizia agli 11, 12, 13, è l'età in cui io mi sto incamminando con i miei figli. A questo punto credo che puoi far poco per dare, ma piuttosto devi iniziare a tirar fuori quello che già sanno. Se l'hai fatto dai 2 anni ai 9-10 anni, adesso puoi iniziare a tirar fuori. Se il tuo figlio deve fare una decisione, gli dici: lo sai, Aurora, lo sai che cosa farebbe Gesù in questo caso? No, ti ricordi di questa storia? Che cosa devi fare tu? Come devi vivere questa situazione? Come ti ricordi che abbiamo letto? Di non avere ansia per nessuna cosa, ma in ogni cosa portare le nostre richieste al Signore. È vero, ti ricordi? E glielo fai portare lì fuori da loro. Questo dobbiamo impartire nei nostri figli. Un'altra parentesi. Se ci sono genitori che dicono: Gianluca, ma io ho dato la mia vita a Gesù un mese fa e ho sprecato l'infanzia dei miei figli. Non è mai troppo tardi con Cristo Gesù. Il Signore può fare una cosa nuova sempre, sempre. Inizia a pregare e a chiedere al Signore: Signore, come posso impartire queste verità ai miei figli? Perché? Perché non si finisce mai di essere genitori. Nonni, continuate a farlo con i vostri figli e fatelo con i vostri nipoti. Continuiamo a farlo, continuiamo a proclamare le verità di questo Salmo alla generazione futura. Un'altra cosa che io userei, che abbiamo usato, è le circostanze di vita, quello che succede ogni giorno. Tipo, una volta con i miei figli abbiamo iniziato a cantare nella macchina il canto 1000 ragioni, no? Ce l'avete presente? No, vi risparmio dal cantarlo, però c'è una frase in quella canzone che dice: sei grande in amore, ricco in amore e lento all'ira. E io lì, siccome stavamo cantando insieme, poi nel frattempo avevamo parcheggiato, eravamo in giardino, e ho detto: ma sapete che cosa significa? Sapete come Dio ha rivelato questo al suo popolo, a noi? E gli ho raccontato la storia di Mosè, vi ricordate? Sul monte, Mosè gli chiede: Signore, voglio vederti. No, non puoi vedermi, se no muori, ti nascondo, però quando potrai vedere la mia schiena, io rivelerò qualcosa di me. E lì, di tutte le cose che il Signore, questo ho detto ai bambini, di tutte le cose, così, di tutte le cose che il Signore poteva dire, di tutte le cose che il Signore glorioso poteva rivelare di se stesso, ha detto: lento all'ira, si arrabbia, ma non sempre. E prima che si arrabbia di brutto, ce ne vuole, ne dobbiamo fare di errori. Il Signore è lento all'ira, ma al contrario è abbondante in amore. Se il Signore deve scegliere fra l'ira e l'amore, 9 volte su 10 sceglierà l'amore e non l'ira. Questo significa, dentro e lì mi guardavano con gli occhi sgranati, ah, questo è quello che cantiamo. La mia speranza, la mia preghiera, sono certo che così, è che ogni volta che i miei bimbi cantano quella canzone qui in chiesa, ricordino quella storia, ricordino quella verità, ricordino quella parabola, quel mistero di chi Dio è nella loro vita, lento all'ira e abbondante in amore. Usa le circostanze della vita. Un'altra cosa che ho fatto una volta era la lite in macchina. No, hanno iniziato a litigare, non era una vera e propria lite, perché c'erano i miei figli e i loro amici di scuola, li hanno andati a prendere a scuola, stavano tornando a casa e succedono i cataclismi universali a scuola, non so se avete notato, però a me entrano in macchina tutti e quattro, dicono, ma quello così, quello con là, quello con là, ma devi vedere che cosa è successo. E io ho detto, ragazzi, sapete che cosa dice la Bibbia? E i miei figli fanno, no papà, ma lo sanno, ormai lo sanno, se fanno così vuol dire che l'hanno sentito abbastanza volte e che lo sanno, ma è un'opportunità sia per i miei figli di insegnare che la Bibbia ci insegna ad essere pazienti, pieni di amore e quant'altro, ma anche ai loro amici. È un'opportunità per me di testimoniare ai figli agli amici dei miei figli quello che la parola del Signore dice, chi siamo noi e chi Dio è. Usiamo le circostanze della nostra vita. E l'ultima cosa pratica che ho usato con i miei figli sono i momenti di ribellione e di disciplina. Ci sono, a meno che non hai figli perfetti e tu non sei perfetto, ci sono questi momenti catartici dove ti fanno perdere la pazienza, dove disobbediscono per l'ennesima volta. E lì prima di tutto dobbiamo ricordare che io sono il popolo di Israele, io sbaglio 1, 2, 3, 10 volte. E poi ricordarlo a loro, quelle sono occasioni per sedersi con i nostri figli e dire, Laigi, adesso c'è una battaglia universale fra le potenze delle tenebre e le potenze della luce nel tuo cuore. Tu hai questa scelta adesso davanti a te e lo sai che il regno della luce, Dio con i suoi angeli, sta combattendo per il tuo cuore contro il regno delle tenebre. Qual è la tua scelta adesso? Di ribellarti a me, di dire, oh papà, no, lasciami stare. Scegli la luce. Questi sono i momenti dove noi possiamo proclamare queste verità. Questo è quello che il Salmo 78 ci chiama a fare, da una generazione all'altra, fino ai nipoti dei nipoti. Questa è la nostra chiamata, fratelli e sorelle. Ricordare chi siamo noi, che noi siamo il popolo del Salmo 78. E che se non fosse stato per la sua grazia, per quello che lui primo ha fatto per noi, noi saremmo ancora schiavi, noi saremmo ancora in prigione, noi saremmo ancora figli di ribellione e di disubbidienza, come c'è scritto in Efesini. Ma è grazie a quello che Dio ha fatto che ci ha reso liberi. Questo noi dobbiamo ricordare per noi e proclamare alla generazione futura. Quindi mamme, papà, nonni, naturali, biologici o spirituali, proclamiamo queste verità. Amen. Ci alziamo in piedi. E io voglio proprio pregare per ognuno di noi. Siamo tutti papà e mamme in una certa misura, con questa responsabilità di proclamare queste verità. E so che non è facile. Sono papà anch'io. 9 volte su 10 sono impaziente piuttosto che. Ma la nostra responsabilità è continuare a proclamare e investire nei nostri figli. soprattutto continuare a dire: io faccio parte di quel popolo, insieme a te, tutti e due abbiamo bisogno di un Salvatore, tutti e due abbiamo bisogno di una speranza che si trova solo in Dio. Se hai fallito una volta, due volte o tre volte, non importa. Dobbiamo continuare a proclamare le verità, perché il cambiamento del cuore del nostro figlio non sta nelle nostre mani. Tu, io non possiamo salvare la vita di nostro figlio, di nostra figlia. Solo Dio salva, solo Dio trasforma i cuori, solo Dio porta nuova nascita. Per questo rimettiamoci a Lui e continuiamo a farlo, continuiamo a proclamare quello che Lui ci chiama a fare. E io so che in questa stanza ci sono persone, ci sono papà, ci sono mamme che si sentono dei falliti. Tutte le mamme e papà si sentono dei falliti, perché siamo falliti, siamo imperfetti. Ma Lui opera attraverso di noi. Lui vuole continuare a operare attraverso di noi. L'unica cosa che non possiamo permetterci di fare è continuare a proclamare, investire nelle vite dei nostri figli. Quindi per tutti i genitori, spirituali o biologici, se dici: sì Gianluca, io ho perso questo di vista, sì, non sono stato intenzionale come dovrei essere, non ho preso quei 10 minuti al giorno, non ho usato le circostanze della mia vita, non ho fatto altro per proclamare queste verità, ho bisogno di preghiera. Se sei questo papà, se sei questa mamma, alza la tua mano, voglio pregare per te affinché il Signore possa intervenire nella tua situazione, nella tua famiglia, nelle relazioni di famiglia e portare guarigione fra mamme e figlie, fra papà e figli, fra nonne e nipoti, che il Signore Gesù possa intervenire. Se sei un genitore e hai un senso di colpa, alza la tua mano in arresa al Signore in questo momento. Riconosci di aver fallito e la sua grazia basta. Basta non solo a perdonare, ma a fare ogni cosa nuova nella tua vita e nella vita della tua famiglia. Signore Gesù, io ti prego per queste mani alzate. E Padre, io ti prego affinché tu possa intervenire in questo momento. E Padre, porta tu la tua guarigione, Signore. Padre, ti prego in particolar modo per i papà in questa stanza. Signore, io ti prego, Signore, affinché tu possa risvegliare questo senso, Signore, di determinazione, di dedicazione a voler proclamare le tue verità, Signore, a voler condividere la tua parola, Signore, a voler condividere te con i propri figli, Signore. Padre, io prego in particolar modo per le relazioni fra papà e figli maschi. Padre, io prego in questo momento di portare guarigione lì dove c'è stata separazione, lì dove c'è stato odio, lì dove il nemico ha voluto portare morte, Signore, distruzione. Padre, noi proclamiamo la tua guarigione, Signore, la tua riconciliazione, Signore, che Padre tu possa intervenire in questo momento, Signore. Padre, io ti prego, Signore, per noi come genitori, affinché possiamo essere fedeli alla tua parola, Signore, e proclamare questo alle generazioni future. Padre, senza di te non possiamo, non siamo nulla, per questo ci rimettiamo a te. Padre, dacci tu la potenza necessaria per essere i genitori che ci chiami ad essere. I genitori che ci chiami ad essere, nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù.